italiane. E anche il governatore del Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, intervistato da Repubblica, dice: non sono credibili, stavolta il Friuli dirà di no. Le regioni del nord non possono essere messe periodicamente di fronte a questa emergenza. Un'emergenza periodica è un ossimoro. Che a pochi mesi di distanza ci si ritrovi di fronte sempre al medesimo problema significa che non si è fatto abbastanza per risolverlo. Il popolo friulano è abituato a affrontare le sue difficoltà e a risolverle. Può dare una mano una volta, ma rifiuta il ripetersi di atteggiamenti contrari alla cultura civile. Insomma, c'è questo scontro anche all'interno del governo, perché la Lega soprattutto, ma vedete anche alcuni governatori come Renzo Tondo del Popolo della Libertà, dice: si vogliono mettere di traverso stavolta, i rifiuti napoletani non li vogliamo. Ne parleremo con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris alle 8:20 nell'intervista. Voglio chiudere con la Gazzetta, perché insomma c'è un AMSIC a proposito di Napoli, stella del Napoli. AMSIC shock, dice: voglio il Milan. Ha fatto questa intervista alla Pravda, che è curioso anche che uno parli alla Pravda per dire voglio andare dal Napoli al Milan. Però se proprio vuole, qua a Milano c'è posto per Marek Hamsik. Troviamo casa e troviamogli uno spazio armadietto nello spogliatoio a Milanello. 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua alle 8:21 minuti. Voglio salutare il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Buongiorno e ben ritrovato, sindaco. Buongiorno, grazie a lei, ascoltatore. Senta, alle prese con l'emergenza rifiuti, intanto le chiedo, ma secondo lei è normale indagare per epidemia colposa il governatore Caldoro? No, io le indagini della magistratura non le commento. Sono indagini a mio avviso doverose. Noi abbiamo ereditato una situazione drammatica, io l'ho denunciata da tempo in campagna elettorale, sono 15 anni che Napoli è in questa situazione. Adesso per quello che compete il Comune la vogliamo completamente rivoluzionare questa situazione. Partiamo col porta a porta in tutta la città, la raccolta differenziata, il compostaggio e poi Napoli vuole raggiungere l'obiettivo di essere autonoma, perché lo stiamo vedendo anche in questi giorni, non possiamo dipendere da un decreto legge del governo, dai veti di una forza politica, da province, regioni e comuni. Bisogna fare una svolta, sono 15 anni di disastro di chi ha governato in 15 anni l'emergenza ambientale in Campania. Ma a questo proposito, se lei fosse un leghista, anche lei non direbbe un po' ci siamo rotti di questa storia e non vogliamo un sacchetto di spazzatura napoletana? Guardi, non è così, là è un veto politico inaccettabile, perché stanno moltissimi termovalorizzatori del nord e del centro che stanno chiudendo perché sono stati realizzati, anzi sono chiusi e non hanno rifiuti da bruciare, quindi è una posizione ideologica che io rispetto, perché io ovviamente rispetto tutte le posizioni politiche, ma è molto grave perché in un'ottica secessionista, cioè loro sono convinti che il Napoli sia la parte scadente del paese, invece io da sindaco di Napoli darò una prova di orgoglio ai leghisti e fra un po' si renderanno conto di che capacità di forza che ha la mia città. Fra un po', lei ha promesso il 70% di differenziata entro fine anno, conferma, cioè per Napoli? Noi confermiamo tutto, perché nei quartieri dove la stiamo già facendo, come Bagnoli, c'è addirittura un picco del 90%. Pensi che in questi giorni stiamo ricevendo mail dalle università, dal Confcommercio, dagli industriali, addirittura dai detenuti del carcere di Poggioreale, dai ragazzi delle scuole che vogliono mettersi in movimento, in gioco la raccolta differenziata. A Napoli bisogna dare progetti credibili e la città risponda. Da questo punto di vista io non voglio l'elemosina della Lega. La Lega e il governo decidano che fare. Noi prendiamo atto che fino adesso non hanno fatto nulla, ma non stiamo a aspettare a loro, questo sia ben chiaro. E a questo proposito, anche per esempio il governatore del Friuli oggi, Renzo Tondo del PDL, in un'intervista a Repubblica dice: ma un'emergenza continua è un ossimoro. Voglio dire, noi li abbiamo aiutati, ma adesso non vediamo segnali e dunque anche aiutarli nuovamente non si può. Secondo lei il governo invece dovrebbe fare un decreto per dire cosa? Allora, il Presidente ha ragione nella prima parte, cioè dicendo che effettivamente per 15 anni c'è stata un'emergenza che è stata mantenuta come emergenza perché era una strategia per avere soldi. Sbaglia nel dire che adesso è sempre l'emergenza di prima, è sbagliato, tant'è vero che il sindaco di Napoli e anche tanti altri siamo assolutamente contrari allo stato di emergenza, noi siamo per l'ordinarietà. Quindi i politici più sensibili, ce ne sono tanto nel centro-sinistra quanto nel centro-destra, hanno capito la svolta e vogliono aiutare Napoli, la provincia e la Campania, non nell'ottica dell'emergenza, ma nell'ottica del superamento. Il governo deve fare un decreto che consente di portare i rifiuti fuori regione, che consente al presidente Caldoro, nelle regioni che ovviamente sono disponibili, e sì, nessuna regione della Lega Nord, del Nord è toccata, ecco perché la posizione della Lega quelle limitrofe, quindi quelle limitrofe. Ma ci sarebbe la Puglia, la Toscana, le Marche, l'Emilia, sono diverse le regioni, la Liguria, che hanno mostrato sensibilità e interesse. Quindi la Lega ha una posizione ideologica, ripeto, che rispetto, perché devo dire la Lega tutto si può dire, ma non che non si assuma le responsabilità politiche, sì, quando fa. Sono le coerenti con le loro idee. Senta, ma è vero che giovedì i siti provvisori dove si stanno sversando ora saranno colmi e ci sarà dunque un altro problema? Ma quello, il rischio è proprio questo, che se non si individuano, come è stato fatto, ecco la lentezza degli anni passati, non creare delle strutture può far andare in tilt il ciclo di questo tipo. Ecco perché le dico che noi puntiamo sulla differenziata e a creare dei luoghi in cui Napoli sia autonoma, altrimenti c'è sempre il rischio che una volta risolto poi può andare in tilt il sistema. Però devo dire che stiamo facendo un grande lavoro e c'è grande fiducia e grande ottimismo. Io stamattina sono stato alle 6 del mattino presso l'azienda pubblica Asia insieme agli operai e ai lavoratori. Insomma, il comune è molto com'è vicino. La situazione? E com'è la situazione stamattina? Di quanto... Ma la situazione piano piano, sono 4-5 giorni che sta migliorando, però ripeto, c'è anche quel rischio che ha sottolineato lei, quindi bene essere sempre cauti. Però Napoli negli ultimi 4 giorni è passata da 2.500 a 1.400 tonnellate, quindi se prosegue questo trend c'è da essere ottimisti. Comunque oggi inauguriamo 4 isole ecologiche, stiamo lavorando sulla differenziata, insomma c'è una svolta evidente nella città. Senta, il ministro Fazio dice che non ci sono rischi per la salute, lei ha detto c'è il rischio invece di epidemie, e come la mettiamo? Ripeto, nessuno ha parlato di allarmismo inutile. Il vero pericolo concreto e certo è stato rappresentato dai criminali che hanno acceso i roghi, perché i roghi di spazzatura è diossina e non consentono di raccoglierla perché diventa rifiuto speciale. Per il resto l'allarme epidemia, così per creare panico, è sbagliato, ma sottolineare il pericolo potenziale della salute è un fatto doveroso. Io l'ho fatto in un'ordinanza molto articolata, ci sono anche altri che l'hanno sottolineato. Questo serve per, come dire, cercare tutti di impegnarsi affinché non accada più quello che è successo in questi 15 anni, perché ripeto, l'abbiamo sottolineato, sono 20 anni, 15-20 anni che Napoli ciclicamente, Napoli e provincia si trovano in questa situazione. Senta, ancora due domande. La questione, la differenziata al 70% entro fine anno, qualcuno dice non è che rischia di diventare un po' come i famosi 5 giorni che lei ha promesso e che non sono stati mantenuti per motivi che adesso lei ci spiegherà. Cioè se alla fine anno non si arriva al 70% differenziata, lei che fa? Si dimette? Ma sta storia dei 5 giorni, io vorrei che i giornalisti di informazione stiano attenti a pesare con correttezza le parole. Noi abbiamo detto, dopo un tavolo in prefettura, se quanto oggi abbiamo sottolineato e sottoscritto viene mantenuto, in 4 giorni si sarebbe pulita Napoli, non in 5. Se poi un sindaco di una città ti chiude un sito che era stato utilizzato, è chiaro che quei 5 giorni non vengono rispettati. Posso anche dire che facciamo la differenziata in 6 mesi, poi incendiano tutti gli impianti, è chiaro che non. Però noi dobbiamo essere ottimisti. Però è una promessa è una promessa, cioè capisce che. Sì, una promessa. Se chiudono un sito, bisogna essere intelligenti. E come io dico, prometto che porto un compattatore da una parte all'altra, poi incendiano il compattatore, cioè tu non hai mantenuto la promessa, insomma bisogna essere anche un po' intelligenti. Quindi lei dice 70% noi lo raggiungiamo sicuro, non forse. Ah, sicuro. E tutti gli sforzi sono indirizzati in quella direzione per raggiungere il porta a porta in tutta la città. Dal 1° settembre partiamo in 8 quartieri, ma già da oggi ci sono le isole ecologiche, da luglio una grande campagna di informazione, anche il presidente del Calcio Napoli farà i suoi sforzi per quanto riguarda la comunicazione. Napoli è mobilitata tutta, poi ci sono anche a Napoli si dice le ciucciuettole, cioè sono quelli che gufano perché deve sempre succedere qualcosa affinché, perché poi gli interessi, spieghiamola agli ascoltatori, la nostra rivoluzione va a toccare interessi criminali, interessi della camorra, interessi di chi lucra sulle tonnellate di spazzatura, chi ha interesse che rimangano i rifiuti perché poi costa di più raccoglierli, insomma non è che stiamo facendo un valzer, diciamo. No, comunque lei dice è sicuro che il 70% ci sarà a fine anno, ovviamente cercando di sfidare se questi tipi di interessi. Se nessuno ci mette di traverso, ovviamente, come è capitato in questi giorni, ce la facciamo sicuro. L'ultima domanda è questa sul bilancio. Entro il 30 giugno va approvato. Lei ha detto la Iervolino ci ha lasciato un ammanco di cassa, ce lo può quantificare? La Iervolino e la sua giunta hanno lasciato una situazione drammatica e tra l'altro politicamente con delle scorrettezze inaudite, perché non hanno approvato il bilancio, avevano il dovere politico e istituzionale di approvare bilancio consuntivo e di previsione, sono andati via lasciandoci una situazione che in 20 giorni abbiamo dovuto ricostruire e abbiamo scoperto che sono andati via lasciandoci praticamente i depositi vuoti. Quindi non si sa quanto? Molto, una situazione molto seria, stiamo ultimando gli ultimi accertamenti, insomma veramente molto grave, quindi noi stiamo salvaguardando le fasce deboli, le politiche sociali, i diritti, il personale, gli stipendi, le aziende più importanti, faremo tagli agli sprechi molto duri per poi ripartire. Ma una cifra non ce la dice? Una cifra più o meno sull'ordine? La cifra sarà dopo domani, ufficiale, perché il 30 approviamo il bilancio e siamo... Certo. Va bene, intanto la ringrazio, Sindaco. Grazie, per essere stato con a lei, ascoltatori. 24 mattino. 8:34 minuti, per qualcuno sono l'emblema del peggio della casta dei politici, per altri dicono no, è un attacco demagogico perché sono una garanzia di libertà per chi fa politica e chi poi, una volta che non vive più di politica, ha questo vitalizio per poter avere di cui vivere. I vitalizi dei parlamentari, è giusto abolirli? Questo vi chiediamo. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Ne vogliamo parlare con il presidente dell'associazione ex parlamentare della Repubblica, Gerardo Bianco, onorevole di lungo corso. Onorevole Bianco, buongiorno. Buongiorno a voi. Saluto anche il capogruppo al Senato dell'Italia dei Valori, Felice Belisario. Senatore Belisario, buongiorno. Buongiorno a lei e al Presidente Bianco. L'Italia dei Valori è una forza politica che ha portato avanti alcune proposte per abolirli. Saluto anche Michele Di Branco del Messaggero, collega del Messaggero. Michele, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, intanto diamo qualche numero che tu hai scritto qualche giorno fa. Sono 3.302 attualmente i vitalizi iscritti a bilancio. Tra l'altro, subito sciogliamo un dubbio, perché subito un ascoltatore vuole sapere questa cosa. Ma c'è la reversibilità al coniuge? Sì, c'è la reversibilità al coniuge. Michele, per quanto pesano questi vitalizi allo Stato? Beh, sì, c'è la reversibilità al coniuge, ma questo non riguarda solo l'Italia, tanto per cominciare, sì. Dobbiamo parlare di demagogia, perché io nel mio pezzo ho cercato in qualche modo di tenermi lontano da questo. C'è anche per i figli, però effettivamente costano molto, nel senso che secondo uno studio che io sabato scrivendo ho trovato, c'è un rapporto di quasi di 9 a 1 tra contributi versati e poi assegni erogati. In realtà c'è un costo totale che pesa sulle finanze pubbliche, di qualcosa in più di 200 milioni di euro l'anno, esatto, che è aumentato poi progressivamente in questi... Su 213 milioni di euro. Sì, 213 milioni di euro, nel 2006 era di 173, se non sbaglio, certo. Non ho le carte sotto mano, ovviamente il costo, il peso aumenta ad ogni fine di legislatura perché... E si aggiungono quelli che sono per esempio alla prima legislatura nelle ultime tornate elettorali. Tra l'altro è stato modificato per la prima volta, le cose migliorano anche, giusto per non fare appunto demagogia, ora bisogna maturare proprio 5 anni di legislatura, sì. Non più 2 anni, 6 mesi, un giorno o addirittura un solo giorno come era all'inizio. Sì, c'è stato, infatti io nel pezzo ho citato il caso, ci sono 3 casi di deputati che non hanno addirittura mai messo piede a Montecitorio, uno di questi ce l'ha messo per qualche giorno, è il più clamoroso, quello di Toni Negri, ricorderanno, certo. Che nell'83 fu eletto alla Camera, se non sbaglio, e poi si diede alla latitanza subito dopo a Parigi. E tuttora incassa un assegno di 3.000 euro lordi. E... Il vitalizio anche per Toni Negri. Allora, senatore Belisario e presidente Bianco. Presidente Bianco, lei intanto è un difensore di questo strumento come emblema della libertà e della libertà di espressione del parlamentare, la libertà anche di poter fare politica. Ci spieghi perché, per non sembrare un attacco alla casta il nostro, onorevole Bianco? Innanzitutto queste sono formule molto giornalistiche che possono fare effetto, la casta. Qui si tratta di un principio fondamentale che peraltro non a caso è fissato anche come principio nella Costituzione, cioè il parlamentare che viene eletto deve avere la sua libertà e autonomia di decisione, che è una cosa che riguarda non solo durante l'esercizio della sua attività parlamentare, ma deve essere garantita anche per il futuro. Di qua la logica della indennità parlamentare e del vitalizio, che va precisato non è affatto una pensione, il vitalizio è una forma di garanzia di questa libertà. Beh, perché diciamo non è una pensione? Cioè il principio che se viene infranto, a mio avviso, cambia sostanzialmente la natura della nostra democrazia, la cambia in una democrazia che è basata sul censo, che è basata una realtà nella quale si possono muovere soltanto e possono partecipare al gioco politico classi dirigenti che hanno a disposizione mezzi economici sterminati, diventa una democrazia praticamente dei ricchi, degli opulenti. Ecco perché. Però Presidente Bianco, mi scusi, lei sa pronto? Che lei sa. Io purtroppo non ho sentito. No, ma adesso le faccio quello che ha detto il giornalista, sì, e quindi sì. Non sono in grado di replicare. Ma adesso le chiedo io, Presidente Bianco. Senta, se lei sa che chi fa il parlamentare può anche fare un altro lavoro contemporaneamente, e se matura un altro lavoro, se fa un altro lavoro, matura anche una pensione di lavoro, cioè che è cumulabile con questo. Come no? Innanzitutto c'è da tenere presente una cosa: nel passato, per esempio, si poteva svolgere, e su questo ci fu una lunga battaglia, l'attività di insegnante, di professore di università e di essere anche parlamentare. Tutto questo è stato abolito perché nella concezione che esisteva nella cosiddetta Prima Repubblica, ed era così, l'attività parlamentare era totalizzante. Io posso portare la testimonianza di centinaia di colleghi, anche perché adesso sono entrato nella conoscenza anche delle loro decisioni di vita, che hanno dovuto chiudere studi, hanno chiuso attività pur di dedicarsi all'attività. Ora non è più così, ora non è più così però. Ora non è più così però. Ma ora non è più così perché oggi i deputati sono non quelli che devono combattere per farsi eleggere, ed avere contatto con l'elettorato e quindi avere un rapporto diretto anche con il loro elettorato. Oggi si trova di fronte a una legge elettorale che purtroppo favorisce sostanzialmente soltanto chi appartiene a certi gruppi, però oggi, come viene riconosciuto a tutti, la legge elettorale crea delle situazioni anormali, cioè di persone che sono praticamente scelte da una piccola oligarchia, e si crea questa condizione. Poi non è che la cosa riguardi tutti, in realtà oggi insomma ci sono molti che vedono l'attività politico-parlamentare come una specie, come si usava una volta, come in modo esclusivo. Comunque lei dice sono una garanzia di libertà. Io vorrei girare questa considerazione al senatore Belisario, come ha detto capogruppo dell'Italia dei Valori. Adesso so che ieri, quando la nostra redazione l'ha contattato, dice anche il Partito Democratico presenterà una mozione per abolire i vitalizi, poi qualcun altro eccetera, e lei ha detto è alla buon'ora. Però insomma, senatore, qua tutti vogliono a parole abolire i vitalizi o rivederli eccetera, anche Tremonti, vedremo se nella riforma ora ci sarà qualcosa nella manovra finanziaria, e poi non si fa niente. Beh, allora cominciamo col dire che nel momento di difficoltà del nostro paese, in cui la gran parte delle categorie sociali sta pagando un prezzo alla crisi, è evidente che chi fa le leggi deve allinearsi cercando di perdere un po' di privilegi che ha. Questa è la prima cosa. Alla sua domanda io rispondo senza demagogia. Noi li abbiamo presentati i provvedimenti per l'abolizione e abbiamo preso sempre soltanto i nostri voti all'interno delle assemblee parlamentari, per cui noi lo abbiamo fatto, speriamo che anche gli altri ci seguiranno. E poi il problema non è solo un problema dei parlamentari, perché noi parliamo anche dei consiglieri regionali che portano a 1.100.000 euro l'anno, 100 milioni di euro l'anno, che se poi lo, come dire, affianchiamo al dimezzamento dei parlamentari, noi andiamo a risparmiare un altro 1,125 miliardi. Sì, ho quindi capito, come, ma... vede, come ma... vede, parliamo di grandi numeri, non parliamo di piccoli ma numeri. Certo, ma se ne sente solo parlare, però, senatore Belisario, qua la, ma, la gente guardi... dice se ne sente parlare, poi chi deve fare queste cose sono le stesse persone che si dovrebbero tagliare, e non dico che cosa, e quindi come è possibile credervi? E come è possibile? Guardi, per la storia del mio partito, anche in questa legislatura, sia alla Camera che al Senato, noi abbiamo presentato per il taglio del vitalizio, anche per un ulteriore taglio dell'indennità parlamentare. Devo dire questo, per do ragione al Presidente Bianco, io nella mia prima vita, perché così la chiamo, io facevo anche l'avvocato, l'attività parlamentare, per quanto parlo della mia esperienza personale, è talmente totalizzante dal lunedì al venerdì che e poi i rapporti, sì, sul territorio, che non c'è la possibilità di esercitare una qualsiasi altra attività. Questo è bene che ce lo diciamo, e che ce lo diciamo in maniera chiara. Io parlo da libero professionista, non ho altre entrate. Ci sono anche fior di avvocati invece che hanno degli studi che si sono ampliati a dismisura, grazie a loro. E grazie probabilmente anche. Devo dire la verità, non si può servire due padroni, o si serve il popolo italiano o si servono le proprie finanze. Intanto andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Ho detto che qualcuno dice ci vorrebbe il referendum per dire, e vediamo poi il risultato. Io immodestamente dico il risultato del nostro sondaggio, una cosa incredibile, ma lo sapevamo. Il 98% dei nostri ascoltatori su Radio24.it dice andrebbero abolite. Chi ci chiede invece come funziona all'estero e altre domande, tra poco ripartiamo anche con Michele Di Branco del Messaggero, capire e all'estero i deputati li prendono o no questi vitalizi, tra poco. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, vorrei chiedere Michele Di Branco, intanto del Messaggero, intanto alla domanda funziona così anche all'estero? Beh, intanto sì, anche i deputati all'estero prendono, in Germania, in Francia, in Gran Bretagna, nell'Unione Europea, dei vitalizi. Questo a dire che insomma chi fa politica perché abbandona per esempio la propria attività è giusto che poi una volta che non viene più rieletto possa vivere di qualcosa. Però prendono meno, no, Di Branco? Sì, non solo prendono meno. Io adesso rispondo alla tua domanda, poi volevo dire una cosa, sì, al senatore Bianco, quando avrò finito, diciamo, quello che sto per dire. Sì, prendono meno, ma soprattutto cominciano a prenderlo dopo i 60 anni di età, come tutti i pensionati, tra virgolette, quelli, diciamo, che si mettono a riposo dopo aver finito la loro attività lavorativa. Io ho fatto una media, diciamo, i dati possono essere scaricati facilmente anche dai dati della Commissione Europea. In media si va, il vitalizio comincia a decorrere dal 60° anno di età, in Inghilterra addirittura dal 65° anno di età, in Germania al 63° anno di età. In Italia ci sono dei casi, io ne ho citato uno forse più clamoroso, di deputati baby, tra virgolette, che hanno cominciato ad incassare l'assegno a 43 anni. Sì, ora nessuno nega, era questo che volevo, e poi anche la consistenza degli assegni, cioè il rapporto tra i contributi versati e il peso degli assegni che viene che viene percepito è incredibilmente, sì, facciamolo il nome, tanto non è mica un reato. Giuseppe Gambale, che, esatto, che è stato onorevole fino a 42 anni, prenderà un vitalizio, dunque a vita, di 8.455 euro lordi al mese, al quale peraltro lui per un certo periodo ha anche aggiunto uno stipendio di poco meno di 4.000 euro quando fu assessore a Napoli. Ora io voglio dire una cosa, cioè molto rispetto per il presidente Bianco, e nessuno nega il diritto ovviamente per chi fa il parlamentare, per chi lo ha fatto, ha servito le istituzioni, di avere come suo diritto qualcosa, dei soldi, insomma un vitalizio. Però il presupposto che faceva per cui il parlamentare deve essere libero, per cui gli, deve essere garantita, diciamo, una, un vitalizio per evitare, sì, in qualche modo che possa, che possa essere, diciamo, fatto, È corretto, però non può scadere nel privilegio. Ci sono cioè non tutti i lavoratori ovunque nel mondo maturano un diritto al vitalizio quando arrivano a una certa età. Non è possibile, cioè, diventa in qualche modo pretestuoso, secondo me, ma poi i numeri sono di fronte. Allora viene preso come, insomma, viene percepito come un privilegio, è inutile negarlo. A questo proposito, presidente Bianco, lei teme che Tremonti nella manovra possa rivedere questo strumento? Allora, io purtroppo non posso dare una risposta al giornalista, perché non ho sentito quello, dice, che ha detto, se non per qualche parola, sì, soltanto, quindi non so vero quale sia stata la sua osservazione, però se capisco bene ha portato qualche esempio di situazioni anomale, sì, che peraltro esistevano e sono state via via eliminate. Per rispondere alla sua domanda, innanzitutto io vorrei stabilire un principio. Tremonti è il ministro dell'economia, lui ha competenze indubbiamente in materia economica, ha il diritto di usare la leva fiscale, quindi la può usare secondo i criteri che guidano la sua azione, cioè di risanare i conti pubblici, sì, ammesso che, insomma, questo qui sia in grado di farlo. Però, seconda cosa, vero, può interloquire con le Camere per stabilire l'ammontare delle risorse da attribuire, ma l'unica cosa che non può fare, questo è un vulnus grave della situazione, è quella di stabilire che cosa devono fare i parlamentari e qual, certo, è lo status, certo, del parlamentare, certo. Cioè lui può ragionare soltanto sulle risorse da attribuire, perché se interviene dicendo si dà il vitalizio, non si dà il vitalizio deve ammontare a questo, a quell'altro, oppure si deve dare l'indennità, si deve togliere l'indennità, questa è una, non lo, diciamo, può fare perché l'intromissione dell'autonomia delle Camere. Esatto, hanno... spieghiamolo agli ascoltatori, presidente, esiste questo termine che si chiama autodichia, per cui... Non è solo autodichia, è l'autonomia, l'autonomia, è l'indipendenza degli organi costituzionali. Esatto, e quindi... Peraltro lui ha fatto una premessa peraltro sbagliata, perché secondo uno schema che gira c'è escluso la Presidenza della Repubblica, e va benissimo, la Presidenza della Repubblica è un organo ovviamente a sé stante, ma anche gli altri organi costituzionali, lui può discutere sulle risorse da attribuire, non può discutere sulle decisioni interne, che vanno prese secondo criteri di autonomia, di indipendenza e naturalmente tenendo conto anche delle esigenze dei bilanci dello Stato che devono essere risanati. Vogliamo sentire Franco dalla provincia di Bari, lei è l'unico ascoltatore che può intervenire, che il tempo corre. Franco, dica velocemente. Buongiorno, salve, grazie per il privilegio e complimenti per anche lei è un privilegiato come il vitalizio. Dica. La ringrazio. Niente, volevo dire che io sono fra quelli che non ha avuto modo di telefonare, che sicuramente saranno tanti, e che non sono d'accordo che loro mantengono questo privilegio anche dopo il loro mandato. Secondo me, visto che ci stanno chiedendo di fare sacrifici, ed è giusto che li facciamo un po' tutti, e anche loro hanno il loro mandato, 4-8 anni, ed è giusto che vengano contribuiti per gli 8 anni che sono là. Io lavoro presso un'azienda, se mi mandano via, non neanche, cioè chi mi paga se mi mandano via? Boh. C'è la liquidazione, trattamento fino a porta e basta. No, ma è chiaro, va bene. Non è giusto. No, ma è chiaro. Devono mantenere i loro, voglio dire, privilegi, il loro coso. Finché sono là, una volta scaduto il loro mandato, basta. Grazie Franco. Ho 20 secondi. Senatore Belisario, voi ci riprovate, perché qualcuno vi accusa di dire di fare delle proposte demagogiche, sapendo che non passano, ma intanto fate una bella figura. Ma guardi, le chiacchiere se le porta il vento. Noi facciamo atti parlamentari e sfidiamo le altre forze presenti in Parlamento di votarle. Gli italiani possono soltanto dirci che siamo contraddittori o demagogici se presentiamo le norme e non le votiamo. Noi invece le presentiamo, le voteremo e chiediamo agli altri colleghi di fare altrettanto. Intanto noi ci fermiamo, ringrazio tutti i nostri ospiti, così come Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Pietro Lacorte in regia. Ricordatevi che su Facebook la nostra pagina 24 Mattino è sempre molto attiva, con tante proposte, commenti, aggiunte, foto e quant'altro. Andate lì, ci trovate, come ci troverete domani mattina alle 7:20, e ora la linea va a Oscar Giannino. A domani.